Grazie per la pazienza di quelli di voi che stavano guardando questo un pochino prima. Avevo cominciato a predicare e mi sono reso conto che mancava il suono, quindi quella parte del video è stata cancellata. Quelli di voi che adesso ci stanno guardando, questa è la seconda volta che inizio il sermone, quindi adesso riuscire a fare tutti i dettagli, a portare a termine tutti i dettagli. È stato un po' folle fare tutti. Abbiamo lavorato giorno e notte per cercare i modi migliori per restare in comunicazione con voi e far arrivare questo a voi. Voglio dirvi che oggi è la Domenica delle Palme. Se state guardando questo domenica mattina, se voi a Sigonella state guardando questo in diretta, certo cerco di capire, di comprendere per quale motivo mai siate svegli alle 2 alle 3 di notte. Spegnete e andate a riposare, guardate domani mattina alle 11 insieme alla vostra famiglia. Ma voglio che voi adesso andiate con la vostra Bibbia al Vangelo di Matteo, capitolo 21, e io in questi miei ultimi due messaggi sul tema di storie della Bibbia che vivono, lavorerò ancora su questi temi. Ci sarà un crescendo fino a Pasqua, a darvi le storie di Bibbia della Bibbia che portano un messaggio. E il messaggio di oggi è su Gesù viene in città. Oggi io leggerò per voi dal Vangelo di Matteo, capitolo 21, la storia della domenica delle palme. E quindi, se avete la vostra Bibbia, aprite la vostra Bibbia, per favore, e cominciamo. Guardiamo cosa dice la Scrittura. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfagi, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi. Subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, sopra un asinello, puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che lo precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Quando fu entrato in Gerusalemme, tutta la città fu scossa e si diceva: chi è costui? E le folle dicevano: questo è Gesù, il profeta che viene da Nazareth, in Galilea. Oggi è quello che il mondo chiama Domenica delle Palme nel calendario cristiano. Non è sorprendente che questo venga celebrato in tutti i tipi di tradizioni cristiane attorno al mondo. Nelle nostre chiese liturgiche questo fa iniziare la cosiddetta Settimana Santa, che è una settimana di osservazioni di precetti che portano fino alla risurrezione. Qui nella storia i rami vengono tagliati da alberi generali, ma noi enfatizziamo più che altro le palme. Essi venivano utilizzati per coprire la strada sulla quale Gesù camminava. In alcune chiese queste palme vengono benedette, ci si prega sopra e vengono appese alle case. Come giovane cattolico, nella mia casa c'erano sempre delle palme appese. In alcuni paesi i 40 giorni richiesti dalla Quaresima si concludono con dei pasti particolari, nella Repubblica Ceca del pesce salato, in Inghilterra delle minestre di piselli spezzati, sempre nella Repubblica Ceca dei ragazzi prendono dei rami di salice e colpiscono leggermente le gambe delle ragazze. Ma quello che voglio sottolineare è che il resoconto biblico dell'entrata di Gesù a Gerusalemme non può essere ignorato, soprattutto perché tutti e quattro i Vangeli lo includono. Adesso il Vangelo di Giovanni non dà molti dettagli e il Vangelo di Luca ce ne dà un po' di più, soprattutto sui farisei, ma tutti e quattro danno questo resoconto. Alcuni di loro usano praticamente le stesse parole. Quindi la domanda che voglio farvi è perché questi scrittori dei Vangeli si sono assicurati di includere questo resoconto? Quindi tutti e quattro ci danno il resoconto. Alcuni danno parola per parola lo stesso resoconto. E la mia domanda è perché questi scrittori volevano assicurarsi di includere la storia il resoconto dell'entrata di Gesù a Gerusalemme. Prendete appunti. Allora, numero uno, era profetica, era il compimento diretto di una delle profezie sul Messia. Quindi tutti gli ebrei cercavano si aspettavano questo capo militare che sarebbe arrivato a cavallo di uno stallone. E alcuni hanno ignorato Zaccaria, capitolo 9, verso 9, dove Zaccaria dice chiaramente: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Quindi Gesù entrò a Gerusalemme cavalcando un puledro d'asina con la piena intenzione di indicare che lui era il Messia per il quale loro dovevano cercare. Secondo, perché molte cose teologiche vengono rivelate in questo resoconto di ciò che porta alla croce. Quindi cose teologiche su Gesù che rivelano il lavoro che lui stava andando a fare sulla croce. Terzo, è pieno di chicche di verità. Alcune delle quali esploreremo tra poco, importanti per i credenti oggi. Quindi vi mostrerò 5 punti estremamente interessanti e spero che voi li mettiate giù, li prendete nota e che mai più guardate questa storia come prima. Quindi 5 cose da considerare che emergono chiaramente. Allora, prima cosa da notare, 3 Vangeli su 4 mettono in luce il fatto che questo puledro d'asina era preso in prestito, era stato prestato da qualcuno. Quindi qualcuno volontariamente aveva rilasciato questo asinello per Gesù affinché Gesù lo utilizzasse. Ci torneremo su questa cosa. Un'altra cosa, questo asinello, proprio per questo puledro, proprio perché nessuno lo aveva mai cavalcato, non era domato. E se voi venite da una cultura dei cavalli, sapete che né un mulo, né un cavallo, né un asino non domato, che non è mai stato montato, se voi ci provate a salire sopra, verrete presi a calci. E invece Gesù sale su questo, monta su questo puledro d'asina e dolcemente, serenamente si avvia verso Gerusalemme. Il puledro obbedisce alla sua guida tutto il tempo attraverso le strade di Gerusalemme. Questo perché lui era il figlio di Dio, il creatore di tutte le cose, e si sottometteva a lui. E questo è anche significativo perché anche il re Salomone, che era il re prescelto e erede di Davide, quando lui era stato incoronato come re, anche lui entrò a Gerusalemme cavalcando un asino. Quindi il fatto che Gesù stesse cavalcando un asino entrando a Gerusalemme era simbolo della restaurazione del tempio del regno di Gerusalemme. Quindi era una dimostrazione che il regno di Davide stava per essere restaurato. Ed era una dimostrazione chiara. E adesso voglio parlare del percorso che prende. Allora, Gesù cavalca giù dalla montagna di Gerusalemme, dalla montagna degli Olivi, e quindi Gesù scende a cavallo del puledro per il Monte degli Olivi, giù per il Monte degli Olivi, attraversa il ruscello Kidron. E entra nella città attraverso la porta orientale. È interessante perché questo stesso percorso, nella direzione opposta, è il percorso che Gesù, che il re Davide ha preso quando scappò da Gerusalemme per scappare da suo figlio a Salonne. E mentre scappava, le persone piangevano, ma Davide venne anche preso a pietrate e maledetto. E adesso il figlio di Davide, Gesù, entra al contrario, facendo il percorso opposto, mentre le persone lo benedicono nella città di Gerusalemme. E questo significa che lui sta per ristabilire il trono di Davide per l'eternità. Questo è straordinario. Io ho avuto la possibilità di camminare su questa strada da tutte le parti a Gerusalemme e sempre mi veniva alla mente che cosa era accaduto lì. Terzo, guardate questa proclamazione. Gli ebrei. Gli israeliti stanno gridando a lui Hosanna Baruch Bacem Adonai, che significa Osanna, salva adesso, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Questo non era un caso. Gesù non avrebbe potuto orchestrare perfettamente le pronunciazioni profetiche che venivano dalla folla. Save now, salva adesso, la profezia. Ma è anche una citazione precisa del Salmo 118, verso 26 e 27. Voglio che andate a vederlo. Andatelo a vedere. Salmo 118, 26 e 27. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi il Salmo dice: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio e risplende su di noi. Legate la vittima della solennità e portatela ai corni dell'altare. Nella versione americana, legatelo ai corni, portatelo ai corni e legatelo ai corni dell'altare. È straordinario. Stanno citando un salmo, lo stanno lodando mentre lui entra nella città, benedicendolo, ma lo stanno lodando usando un salmo che celebra il legare il sacrificio ai corni dell'altare. Non potrebbe essere più appropriato di così. Gesù sta venendo proprio come l'agnello sacrificale al tempio per essere sacrificato. Loro stanno letteralmente celebrando quello che Gesù sta per fare. E ancora. Sull'agnello della Pasqua, sulla preparazione della Pasqua. Fra poco sarà Pasqua e a Gerusalemme c'è un processo enorme di migliaia di pecore, migliaia di agnelli che stanno venendo e c'era una folla enorme di agnelli che venivano trasportati insieme alle persone che venivano dai villaggi a Gerusalemme per sacrificare, dovevano essere accomodati. Le strade erano inondate da questi agnelli dei pellegrini. L'avrebbero portati alle corte del Tempio, dove i sacerdoti avrebbero ispezionato questi animali sacrificali per assicurarsi che fossero adatti per il sacrificio, per l'offerta. Benedetta. Quindi c'era questa ispezione da parte dei sacerdoti. La Pasqua era un'operazione massiccia, dall'inizio alla fine. Migliaia e migliaia di offerte di agnelli erano per le strade erano straripanti di agnelli. Era come se fosse una specie di zoo le strade della città. E proprio perché venivano portati al tempio, è ovvio che le strade fossero coperte da sterco di pecora. E questo Ecco perché c'è un'enfasi sul fatto che le persone si levassero i vestiti, le vesti, i mantelli per coprire la strada affinché Gesù potesse entrare nella città e non attraversare lo sterco direttamente. Ma la simbologia è ancora più potente. Mentre questi agnelli venivano fatti entrare dalla porta nord della città, Gesù, l'agnello di Dio, entrava dalla porta est, l'agnello di Dio che avrebbe cancellato i nostri peccati una volta per tutti. Ancora, i preti, quando ispezionavano gli agnelli sacrificali, facevano tre domande. La prima doveva essere, facevano tre controlli, tre test. La prima doveva essere un agnello maschio, doveva avere più di un anno o più, e non doveva avere nessuna macchia, doveva essere un agnello perfetto. Adesso è interessante che dopo che Gesù entra nella città, anche lui va al tempio, e mentre è nel cortile del tempio, anche lui viene messo sotto griglia dai sacerdoti e gli vengono fatte tre domande, tre test anche a lui. La prima, sotto quale autorità fai questo? Con quale autorità? La seconda, dobbiamo pagare le tasse a Cesare? Numero tre, un quiz da parte dei Sadducei sulla resurrezione. Quindi è anche interessante notare che Gesù passa tutti questi test, ma è anche valido, importante notare che Gesù comunque adempiuto tutti i requisiti, era maschio, era adulto ed era senza macchia, puro completamente. Quindi torniamo indietro all'idea di prima dell'agnello, dell'asino preso in prestito. Gesù manda i suoi due discepoli dall'altra parte del Monte degli Olivi a questo villaggio e gli dice: aspettatevi di vedere un'asina e un puledro. E gli dice: dite al proprietario, il Signore ha bisogno di loro. Adesso non so cosa fareste voi se qualcuno venisse da voi e vi dicesse: il Signore ha bisogno di voi, o il Signore ha bisogno di ciò che voi possedete, o il Signore ha bisogno del vostro tempo, del vostro talento, delle vostre abilità, delle vostre capacità. Ma in questo caso loro hanno semplicemente detto: il Signore ha bisogno di loro. E loro e i proprietari immediatamente rilasciarono questi animali a loro. Io l'ho detto mille volte negli studi biblici, in chiesa. Dio non fa nessuna cosa senza la cooperazione dell'uomo. Anche dopo la creazione che Dio ha fatto da solo, ma il sesto giorno crea l'uomo e mette l'uomo nel giardino, nel mezzo della sua creazione, allo scopo di coltivarla, governarla e curarsi di essa. Quindi questa è una scena molto potente. E inizia con la cooperazione e gli animali che vengono sacrificati nel tempio dovevano essere animali che non erano mai stati usati prima per nessun'altra cosa. Tu non potevi portare il tuo agnello e sacrificarlo solo dopo averlo usato, averlo fatto svezzato, fatto crescere, munto per latte, utilizzato. Doveva essere un agnello che non era mai stato usato per nessun'altra cosa eccetto essere offerto al Signore per il sacrificio. Questo è molto potente. Questo asino, questo puledro non è stato consegnato al Signore come qualcosa di usato, perché non gli serviva più. È stato un tipo di primizia, intatto, rilasciato, consegnato, rilasciato completamente per l'uso di Gesù. Spero che capite di cosa parliamo, perché voglio che voi capiate che il potere di rilasciare, di consegnare a Dio una cooperazione sacrificale viene da una cooperazione di tipo primizia. Io vado prima da Lui, io chiedo prima a Lui, io consulto prima a Lui, io implemento le sue istruzioni, le sue linee guida, io do a Lui la prima parte del mio giorno, della mia settimana, del mio guadagno, perché il prodotto finito di quello che io consegno, di quello che io lascio nelle mani di Dio, è sempre migliore della massa di disordine che è tutto il resto di ciò che io tengo per me e che poi do a Dio chiedendogli di sistemarla. Se non avete colto bene questo, potete portarlo indietro e ascoltarlo di nuovo. Quindi il prodotto finito di ciò che io lascio Dio è sempre migliore che l'avanzo, la rimanenza di disordine, confusione che io tengo e che poi sottometto a Lui perché Lui l'aggiusti. È un promemoria per noi, sì, un reminder, un richiamo all'attenzione. Gesù entra in quegli spazi in cui noi cooperativamente, in maniera sacrificale, lo adoriamo, cooperando con Lui. Questa è la chiave alla sua presenza nella vostra vita e nella vostra casa. Guardiamo ora le lodi che gli stanno dando. La natura di queste lodi è il motivo per cui spesso predichiamo su questo passaggio. Questa adorazione includeva uno sforzo, perché loro andavano a raccogliere, a tagliare i rami degli alberi. Aveva un prezzo, un costo, perché davano loro proprietà, i loro vestiti, i loro mantelli, perché Gesù ci camminasse sopra col suo puledro. Ma era anche gioiosa, era sonora, era ad alto volume, era veramente dimostrativa. E questo è dove il Vangelo di Luca ci dà qualche dettaglio in più. Lui ci dice che la folla stava lodando, stava adorando così forte che i farisei non apprezzarono questo. E in Luca 19, 39, 40 dice questo. Luca 19:39. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli rispose: Vi dico che se costoro taceranno, grideranno le pietre. Ci piace questo. Noi ci piace questo verso. Cantiamo canzoni, cantici con questo verso. Noi pentecostali soprattutto, a noi piace la musica, la lode che sia ad alto volume, ma questa è la verità. I farisei non apprezzarono questa adorazione ad alto volume, soprattutto perché era rivolta a Gesù. Ma questa era veramente lode, grezza, era lode pura, senza luci, senza equipaggiamento speciale, senza altoparlanti. Non avevano un palcoscenico, non c'era un capo del gruppo musicale, non c'era musica professionale, non c'erano luci, fumo. Era puramente centrata attorno alla gioia di Gesù che entrava in città. Era provocata puramente dal vedere la sua faccia, il suo volto, da vederlo faccia a faccia mentre entrava nella città. Nessuna rappresentazione nei film, nessun videoclip ha mai potuto catturare il resoconto dell'energia di quella folla adorante come il racconto di Luca e di Matteo. Guardate cosa dice Zaccaria nella profezia. Gioite, esultate. Nell'ebraico questa parola esulta è la parola Gilgil e vuol dire ruotare attorno a se stessi, ruotare vorticosamente attorno a se stessi. La parola successiva, esultate grandemente, è marod, che vuol dire veementemente, con veemenza, quindi in maniera estremamente sonora e forte, con molta forza. Poi dice gridate, e la parola ebrea è la parola hifil, che vuol dire spaccate le orecchie. Vi rendete conto di cosa dice? Io sto avendo nella profezia di Zaccaria, sto avendo la descrizione esatta di come questa lode dovesse essere a Gerusalemme. Spaccava le orecchie, era così entusiasta da ruotare su se stessi. Questa è una lode con totale abbandono e noi non siamo abituati a questo. Forse noi cerchiamo di rendere tutti comodi con la lode, con l'adorazione. Ci piace l'adorazione, ci piace questa adorazione graziosa con le luci calde, l'atmosfera un po' ambient, i visi illuminati, radiosi, tutti un po' con le mani alte, alzate in maniera, con le mani un po' simmetriche, però molto ordinate, le alzate in maniera armoniosa, magari qualche leggero saltellino, ma qui all'entrata di Gesù loro riconoscevano, stavano ripassando davanti ai loro occhi, ripercorrendo cosa Gesù aveva fatto. Che cosa aveva fatto Gesù? Loro ripercorrevano, ricordavano che questo era quello che aveva distribuito pani e pesci nel nulla, che aveva guarito il braccio rattrappito, che aveva fatto alzare lo zoppo dal suo letto, dalla sua lettiga, quello che aveva interrotto la processione dei funerali, quello alla cui voce i demoni obbedivano, colui che aveva calmato il mare e il vento, colui che aveva camminato sull'acqua, colui che aveva guarito 10 lebbrosi tutti in una volta, colui che aveva aperto occhi ciechi, aveva sciolto le lingue dei muti, aveva aperto le orecchie dei sordi. Questo era colui che vedevano, che loro adoravano in quel momento. Colui che aveva mostrato misericordia alla donna sirofenicia, che aveva avuto la stessa misericordia, la stessa pietà verso il centurione romano, per la donna al pozzo, per la donna che aveva lavato i suoi piedi con i suoi capelli, colui che aveva fatto risuscitare Lazzaro dai morti, dopo che era morto da 4 giorni. E adesso lui arrivava in città, era arrivato in città e loro erano esplosi in una pazza, spontanea adorazione. Ecco, ascoltate, questo è proprio dove siamo esattamente noi in questo momento. Siamo senza piattaforme, siamo senza palcoscenici, non abbiamo più il nostro pubblico, non abbiamo grandi tavole, non abbiamo strumenti e gruppo musicale. Lui ci incontra qui, ovunque noi siamo oggi, nel nostro soggiorno. Al nostro lavoro, seduti forse a una cabina di guardia, ovunque ci troviamo in questo momento, dobbiamo anche noi, come loro, fare ripassare davanti ai nostri occhi chi è lui, che cosa lui ha fatto. Cosa ripassare? Per cosa è accaduto quando la sua presenza è stata introdotta nella città di Gerusalemme e in noi, nella nostra vita. Senza trucchi, senza espedienti, senza cose straordinarie, fischi ed esplosioni. Se c'è un tempo in cui abbiamo bisogno della sua presenza è adesso. Se mai c'è stato un tempo in cui abbiamo bisogno della sua presenza nella nostra casa, nella nostra stanza, è adesso. Ascoltate, a Gerusalemme loro avevano il tempio, ma non avevano la presenza di Dio. Avevano i Leviti, ma non avevano la presenza di Dio. Avevano cerimonie, ma non avevano la sua presenza. Gerusalemme era una città santa, ma niente di spiritualmente significativo era più accaduto lì da 400 anni fino a questo giorno. Gesù entra le porte della città. Chiesa, siete pronti per il suo ingresso? Siete pronti, con in mezzo di questo stress, ansia, monotonia, forse con questo uno spirito anche di malinconia in questo momento, a accogliere la sua presenza? Noi abbiamo bisogno della sua presenza che ci ravvivi, ci rinnovi, ci restauri per le settimane che vengono. Ho visto dei post su Facebook, forse alcuni scherzavano, ma alcuni non sembrano scherzare, sembrano davvero come su persone che hanno bisogno di alcol, di droga per superare questa quarantena. Ascoltate, l'alcol non è niente che un economico e veramente meschino sostituto per la pienezza dello Spirito Santo. Ascoltate, non avete bisogno di un'altra bottiglia, avete bisogno dell'acqua dello Spirito Santo, avete bisogno della presenza di Dio. Questo è quello che vi farà superare la solitudine, vi farà attraversare questo periodo. Ripassare, ripetervi, ripetere a voi stessi che cosa Lui ha fatto, come vi ha liberati dalle dipendenze, dai legami, da sostanze, uso di cose che. Come lui vi ha guarito, come ha restaurato il vostro matrimonio, come ha fatto risultare tutte le cose in bene quando sembrava che non aveste nessuna speranza. Continuate a ripetervi, a ripassare ciò che lui avete fatto e perché merita di essere lodato. E devo anche ricordarvi che quella stessa folla che lo lodava così, dopo pochi giorni, alcuni di loro sarebbero stati la stessa folla che avrebbero urlato per la sua crocifissione. Chi, coloro che l'avevano lodato per quello che aveva fatto, adesso lo avrebbe deriso per quello che loro ritenevano che lui avrebbe dovuto fare. Questo è solo un ricordo, un modo di ricordarci che noi potremmo essere capaci di lodarlo selettivamente, lodarlo quando siamo, di non lodarlo selettivamente. Noi lo lodiamo quando siamo pieni e lodiamo quando siamo vuoti, lo lodiamo quando le nostre preghiere vengono esaudite. E lo lodiamo quando le nostre preghiere non si avverano. Lo preghiamo quando abbiamo lavoro e lo preghiamo anche quando il nostro lavoro ci viene levato. Lo preghiamo quando siamo integri e lo preghiamo e sani e lo preghiamo quando affrontiamo la malattia. Lo preghiamo anche in questa crisi mondiale che non sappiamo risolvere. Quindi lo lodiamo quando i tempi sono dei buoni tempi, dei tempi buoni, e lo preghiamo quando lo adoriamo e lo lodiamo quando affrontiamo una crisi mondiale che sembra senza soluzione. Noi spesso ci approcciamo Dio con tutti le nostre mancanze, i nostri difetti carnali, con la nostra carne, con delle aspettative molto carnali verso di lui. Forza, gente, lui è Dio, lui conosce tutte le cose, lui vede le cose che noi non vediamo. Lui sa che anche quelle cose che io non accetto, che per me sono difficili, alla fine si tramuteranno in bene per me. Lui sa quello che sta accadendo nel mondo. Se quella folla avesse conosciuto l'intero piano, l'intero scopo di Dio in Gerusalemme quella settimana, forse tutto ciò che è accaduto in quella città sarebbe cambiato radicalmente. Ma forse in quella finale settimana, quello che sarebbe accaduto, quello che accade dopo questa scena, Gesù entra nel tempio e caccia tutti gli usurai. E poi c'è la scena in cui Gesù piange su Gerusalemme. Ascoltate, lui piange su Gerusalemme perché lui prima di tutto sa profeticamente quello che accadrà tra pochi anni, che Gesù sarà distrutta dai romani e che gli ebrei saranno portati via prigionieri secondo la profezia di Daniele. Quindi lui piange per Gerusalemme, ma piange anche perché, ma piange su Gerusalemme anche perché lui vedeva così già da lontano il suo popolo ebrei venire a lui con pentimento. Guardate cosa dice in Matteo 23:37. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma ma voi non avete voluto. Spesso, lui dice, ho voluto raccogliervi, raccogliere i tuoi figli sotto le mie ali, come la chioccia, ma loro non erano disposti. Era la sua volontà, era il suo desiderio, non c'è niente misterioso qui, niente di nascosto. Gesù voleva raccoglierli, ma il loro libero arbitrio non era disposto a cooperare. Il Vangelo lo spiega chiaramente in Luca 7:30, la Bibbia interpreta la Bibbia, ricordate la regola, e la Bibbia lo dice proprio chiaramente. I farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Gli ebrei hanno rifiutato la volontà di Dio per loro, non facendosi battezzare da Giovanni. Immaginate cosa. I capi religiosi rifiutarono la volontà di Dio per loro. La volontà di Dio era che loro si pentissero e fossero battizzati, ma loro l'hanno rifiutata. E la scrittura li descrive come resistenti allo Spirito Santo. La Bibbia quindi ci chiarisce, ci mostra che è possibile e che è accaduto di resistere alla volontà dello Spirito Santo, la volontà di Dio per noi. E io so questo, che la volontà di Dio è che ogni uomo sia salvato e che nessuno di essi perisca. Questa è la scrittura in Pietro. Questa scrittura ci rende chiaro che qua non parliamo di un Dio che vuole che alcuni uomini siano salvati e che altri invece siano condannati all'inferno, ma piuttosto questa è una rivelazione di un Dio che vuole, che desidera con tutta la sua volontà che ognuno venga salvato. Questa è la mia domanda adesso. Io so che ci sono un sacco di persone qui che stanno ascoltando questo messaggio che potrebbero non avere mai sottomesso la loro vita a Cristo in pentimento, in fede, in confessione dei peccati, in ricevere Lui nella loro vita come Signore affinché Lui possa lavare i loro peccati, scrivere il loro nome nel libro della vita e chiamarli figli. Se voi adesso state guardando questo, state ascoltando, se non siete nati di nuovo, siete interessati ma non siete salvati, siete vicini ma non siete dentro, state ascoltando, ma non state, state sentendo, ma non state ascoltando. Voi forse siete qui oggi perché forse non potete essere in chiesa. A volte quando qualcosa ci viene tolta, allora poi la desideriamo di più e forse potete beneficiare di questo periodo in cui non possiamo riunirci. Quindi ascoltate bene quello che vi dico. Forse qualcuno che sta ascoltando, è possibile che Dio abbia battuto, vi abbia dato dei colpetti sulla spalla e che ci sia una rivelazione di Dio nella vostra vita, che Dio vi desidera, desidera profondamente che voi vi avvicinate. State forse resistendo ai colpetti sulla spalla dello Spirito Santo? State rifiutando la volontà di Dio per voi, la volontà di Dio che voi siate salvati? Guardate questo come qualcosa orchestrato, ordinata, orchestrata dallo Spirito Santo affinché possa lui sbattere, proprio colpirvi leggermente sulla spalla. E affinché voi vi volgiate al Signore, quante volte Lui ha provato a raccogliervi dentro, sotto le sue ali? Quante volte ha provato ad entrare nella vostra vita? Non è forse tempo? Non è forse tempo di dire: ok, Signore, è finito il tempo, mi hai consumato, è finito il mio tempo di resistenza. Non è questo forse il tempo di permettere a Gesù di entrare nel vostro cuore, come Lui ha fatto quel giorno? Come è entrato a Gerusalemme, io vi prometto che quando avrete fatto questo, lui gioirà. Lui già dice: gioite alla presenza del Signore, che c'era gioia alla presenza del Signore quando uno di noi viene salvato, e ci sarà felicità fra i vostri amici, i vostri fratelli, se voi accettate questo. E come alla fine di una battaglia, di un grande sforzo, se voi dite: ok, basta resistere, accetto quella volontà di Dio per me e mi sottometto a Lui. Adesso pregherò, ragazzi, pregherò per voi. Se voi siete ascoltando questo e questi di cui parlo siete voi, siete pronti a pentirvi a Cristo, messaggiatemi, Io vi rimessaggerò, mandatemi un SMS o anche un messaggio su Facebook in diretta e io vi richiamerò, pregheremo insieme, troverò qualcuno che pregherà con voi. Adesso vi condurrò in preghiera fra un minuto, ma voglio che voi vi ripassiate, ripetiate a voi stessi cosa Dio ha fatto per voi nella vostra casa, nella vostra stanza. E camminate attraverso questi giorni con un senso di gioia. Quindi, Chiesa, fatevi ripassare davanti agli occhi, ripercorrete cosa Dio ha fatto per voi, da dove vi ha portato fuori. E voglio che oggi trasformiate la vostra casa, il vostro soggiorno in un santuario, in un posto di preghiera vivente, di lode vivente. Attraversate questo giorno in un senso di gioia profonda perché Dio è entrato nella vostra vita e non dovete dimenticarlo. Padre Celeste, prego per quelli che stanno guardando in questo momento, prego per tutta la nostra famiglia New Hope, che si alzino domenica, la Domenica delle Palme, guarderanno questo sermone, ascolteranno la parola di Dio, si nutriranno. Prego che tu possa convincere il loro cuore, che tu possa darci una fresca rivelazione di ciò che Cristo ha fatto per noi. Prego per coloro che non sono salvati e stanno guardando questo, che il Signore li convinca e li attiri a sé profondamente, potentemente. Questo è il momento, questo è il tempo. Signore, mentre tu batti alla porta al loro cuore, prego che loro, se loro ti chiamano, ti invocano, che tu possa lavarli, levare i loro peccati, santificarli. Signore, se loro ti invocano, io spero che tu ascolti velocemente la loro preghiera, che tu possa lavarli, ripulirli, cancellare il loro passato, rimuovere tutte le cose negative in loro. Santificali, rendili santi, separati per te. E chiamali figlio o figlia in questo giorno, Signore. Signore, prego per coloro che sono scivolati indietro nel peccato, che tu li riporti a casa, che le folle religiose sono sempre esistite, ma questo non significa che loro sono salvati. Signore, chiamali. Ti ringraziamo, Signore, per la famiglia di Dio a Sigonella, io li amo. Prego per il regno di Dio fuori da Sigonella, per tutti quelli che stanno guardando questo, per tutte le nostre chiese. Noi spingiamo indietro l'attacco di questa pandemia. E se ciò che il mondo vede come una cosa spaventosa, terrificante, è nulla per te. Signore, pronuncia la tua presenza di guarigione su tutta la terra in questo giorno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Vi ringrazio, ragazzi, e voglio ricordare a tutti che stanotte alle 6, se volete partecipare, faremo la comunione attraverso Zoom sulla nostra pagina New Hope. E trovate il numero di Zoom pubblicato. Adesso è necessario avere una password o un ID o un numero di identificazione per requisiti di privacy. Quindi cercateci se volete partecipare. E unitevi a noi alle 6, uniti nella vostra soggiorno, nel vostro posto di lavoro, e fatevi trovare già pronti con i vostri elementi per la comunione, un bicchiere, un calice di succo di uva. E non vedo l'ora di vedervi alle 6. Il Signore vi benedica. E sono felice di vedervi online finché ci vedremo di nuovo di persona.